A quei tempi, nel Texas orientale, i grandi boschi non erano ancora stati buttati giù dall'industria e non avevamo bisogno di un corpo forestale per insegnarci che le foreste avevano bisogno di aiuto per sopravvivere. Noi avevamo sempre pensato che siccome erano sopravvissute per secoli senza il nostro aiuto, probabilmente sarebbero andate avanti così. Non appartenevano a nessuno a quei tempi, anche se quella del legno era una grande industria e andava crescendo di giorno in giorno. Ma c'erano ancora alberi poderosi e luoghi dimenticati nei boschi e lungo le argini ombreggiati dei fiumi che non erano ancora stati toccati da nessuno, a parte gli animali. C'erano cinghiali, scoiattoli, conigli, procioni, opossum, qualche armadillo, uccelli d'ogni genere e un mucchio di serpenti. A volte potevi vedere mocassini acquatici nuotare in gruppo lungo il fiume, i loro occhietti cattivi che sporgevano come nodi in un ciocco. Joe Lansdale, in fondo alla palude.